Ci sei tu, e qua solamente un letto stanco. Anche questa finestrella è così vicina che la luce fa fatica a trovare la speranza di riaverti, non solo per un'ora al giorno, ma per sempre. Così che quando io ti cercherò e saprò come tenerti stretta, così indispensabile come il mio vestito su misura, bella come non ti ho visto mai. Oggi è domenica e il tempo pare che si sia fermato proprio qua, sul finire del mio libro amico. Soltanto un errore che qualcuno si è inventato per pigrizia, o forse perché lui lo sa che l'inverno arriva dopo un giorno così lungo, tra pensieri, illusioni e poi ancora un'altra lacrima scivolata dentro questa notte buia di questo precario. Riaverti non solo per un'ora al giorno, ma per sempre. Così che quando io camminerò per le strade della mia città, ti potrò toccare e magari anche respirare pura come non ti ho visto mai. Saprò come tenerti stretta, così indispensabile come il mio vestito su misura, bella come non vederti pura. Lo sai che la vita è dura.